Rosciani e Meazza, buongiorno. Sono un ascoltatore di valore planetario e adesso più che mai in questo periodo nelle mie vene scorre più Radio 24 che sangue. Bravi, buon lavoro e buona giornata da Stefano. Perché i nostri soldi sono una cosa seria. Di Deborah Rosciani e Mauro Meazza. Tu che sei nata dove c'è sempre il sole, sopra uno scoglio che ci si può tuffare, e quel sole c'è, sai, dentro al cuore, sole di primavera, su quello scoglio immaginato un fiore. Colgo dell'ironia dalla scelta di questa canzone, caro Mauro, buongiorno. Buongiorno Deborah, ma no, ma perché? Su quello scoglio in maggio è nato un fiore, dice il poeta, il grande Fabio Concato, che così appunto componeva Fiore di Maggio. E noi parliamo in tempi non sospetti. Sì, sì, beh, con la preveggenza dell'artista diversi anni fa. Perché certo. Adesso da tutti questi scogli li hai sentiti anche nel giornale radio, esatto. Interni alla maggioranza, discussioni, eccetera. Noi speriamo che tra tutti questi scogli nasca un fiore, il decreto di maggio, nel quale sì. Peraltro dovrebbe esserci parecchia roba, perché via via arrivano conferme, arrivano anticipazioni. Prego. Lo chiamerebbero il provvedimento mostra, no? Dati tutti i punti contemplati nell'ambito di un programma molto vasto, naturalmente, che ha l'ambizione di sostenere ancora l'economia in questo periodo e possibilmente farla ripartire. E quindi l'obiettivo è ambizioso, pertanto il risultato da raggiungere difficile, perché deve mettere insieme tante teste e accordare tante persone, no? Come abbiamo visto anche ieri dall'incontro che Conte ha fatto con le parti sociali. È così. E allora che cosa ci aspettiamo? Ve lo riepiloghiamo, perché in molti ci scrivete al 349-238-6666, quindi da quel numero ci mandate sms, messaggi WhatsApp, messaggi vocali. E ci chiedete, ma ci sarà ancora, ad esempio, i 12 giorni di permesso saranno replicati per chi ha la 104 per assistere appunto persone con disabilità? Ci sarà veramente questa replica dei 600 euro? Intanto che qualcuno in realtà dice e ci segnala che deve ancora riceverli, quindi forse c'è ancora qualche problema sulla prima consegna. E altre cose che si attendono, appunto, estensione alla cassa integrazione, congedi parentali, bonus per la babysitter e così via. Insomma, il menu di questo decreto, che era decreto aprile, è diventato decreto maggio, è molto molto ricco, ma fatica a trovare il punto. Oggi riferiamo sul Sole 24 Ore, si pensa a un varo venerdì, quindi forse venerdì potremmo sapere qualcosa, oppure si andrà alla prossima settimana. Noi pazientiamo, ascoltiamo Fabio Concato, siamo qui appunto Luca Cremonese, che è il badante di territorio, oggi l'assistente sul territorio, ovviamente sempre con la vigilanza di Marco Lombardo da remoto, c'è Filippo Aureggi in regia. E se vuoi, non so, ti mettiamo ancora un po' di Concato, oppure diamo il via alla trasmissione di oggi col giornale radio. Tu cosa vuoi fare? Direi che vorrei anticipare agli ascoltatori quali saranno i temi che approfondiremo in questa puntata, visto che mercoledì c'è il tema del lavoro al centro della nostra attenzione, non solo al centro delle preoccupazioni del governo e di tutte le famiglie italiane che magari hanno un componente che in questo momento o è in cassa integrazione o addirittura ha dovuto abbassare la serranda della propria attività imprenditoriale, professionale o commerciale. Parleremo di lavoro per due aspetti. Nella prima parte approfondiremo questa questione che sta generando molta preoccupazione in molti imprenditori e molti datori di lavoro, perché proprio in questi giorni in cui si sono riattivate molte attività economico-produttive, molti lavoratori sono ritornati al posto di lavoro, si è accesa questa attenzione su questo tema che è stato introdotto dal Cura Italia, tanto per cambiare, fra tutte le cose che questo provvedimento ha fatto. Nella sostanza ha previsto che se ti ammali, caro Mauro, sul posto di lavoro, quella circostanza non è più da considerarsi come malattia, ma infortunio sul lavoro, e quindi questo naturalmente apre anche la prospettiva rispettiva ad una responsabilità, tra virgolette, dell'imprenditore, del datore di lavoro. Quindi stamattina avremo un funzionario dell'INAIL che ci chiarirà tutti i termini di questa questione che, come riporta anche stamattina il Sole 24 Ore, appunto crea perplessità e disappunto nel mondo datoriale. Nella seconda parte invece della trasmissione, aiutami ad introdurla, questa è molto interessante perché ha generato moltissima attenzione, oltre a tutte le polemiche ieri che riportavano i nostri giornali radio, appunto, e anche delle prese di posizione molto consistenti da parte del ministro, appunto, dell'agricoltura Teresa Bellanova, il tema dell'impiego nel mondo agricolo. Esattamente, perché appunto abbiamo segnalato, abbiamo sentito, abbiamo letto di questa mancanza di manodopera, di risorse proprio, di forza lavoro nel mondo agricolo, e quindi in un qualche modo si creano anche delle opportunità di lavoro, opportunità a termine, magari opportunità di tipo stagionale. Allora, al netto delle polemiche che, come ha detto giustamente Deborah, non sono il tema del nostro programma, su regolarizzazione o meno dei braccianti che vengono impiegati in modo irregolare, ecco, al di là di quello invece andiamo a vedere quali sono i percorsi regolari per eventualmente trovare lavoro o trovare un lavoro temporaneo nell'agricoltura. Ci aiuteranno anche qui due esperti di valore mondiale, mi pare di capire dalla scaletta, giusto? Esattamente, abbiamo una collega del Sole 24 Ore che ha scritto diffusamente di questo tema, raccontando soprattutto di tutte le piattaforme che sono state attivate per consentire l'incontro fra domanda e offerta nel campo agricolo, e la parola campo non è utilizzata a caso questa mattina. Certo. Parleremo in particolar modo di quella che è stata, come dire, anche istituzionalizzata e patrocinata in qualche maniera da parte pubblica, che è Job in Country, attivata dalla Coldiretti, e ne parleremo diffusamente. Quindi come si possono fare soprattutto le candidature, quali opportunità professionali ci sono in quel settore, e soprattutto c'è da chiarire anche l'aspetto, che è quello forse più complicato, della retribuzione, della remunerazione di questi profili professionali, perché dobbiamo ancora capire se il tema voucher sarà in qualche maniera disciplinato un po' meglio rispetto al passato, che è la modalità con cui appunto questi lavoratori stagionali sono stati sempre storicamente pagati. Allora, vi ho già ricordato il numero per gli sms e whatsapp, lo faccio ancora volentieri, 349-238-6666, mi premeva non dimenticarmi il numero. Bravo. Verde 800-24-0024. Tutto ciò premesso, cara Deborah, e con il permesso dell'ottimo Filippo Auregi in regia, andrei con il giornale radio del risparmio. Con Mazza e Rosciani tenete cari i vostri grani. Certo, Mauro, che sarà interessante verificare con questa crisi dove in prospettiva si apriranno delle nuove opportunità professionali, laddove dei settori invece le stanno praticamente azzerando completamente. Basti pensare a quello che sta accadendo nel comparto del turismo, ed è in totale crisi addirittura Airbnb, no? Infatti, una delle grandi realtà che sembravano tra le più promettenti degli ultimi anni ha annunciato, ohimè, che licenzierà 1900 persone, che è un quarto della sua forza lavoro. Lo ha detto Brian Chesky, amministratore delegato, cofondatore di Airbnb. L'annuncio è stato dato precisando che l'11 di maggio sarà l'ultimo giorno di lavoro per 1900 su 7500 dipendenti. L'effetto, naturalmente, della pandemia, perché è questo che ha chiaramente limitato e pressoché fermato i viaggi e il turismo, quindi anche Airbnb. E sempre Chesky ha detto: le nostre previsioni per il 2020 ci dicono che saremo a meno della metà di quanto abbiamo incassato nel 2019. I licenziamenti opereranno in diversi paesi, quindi ci saranno anche regole diverse di sostegno per l'uscita. Negli Stati Uniti ci sarà una buona uscita di 14 settimane più una settimana di stipendio per ogni anno lavorato in Airbnb e 12 mesi di assicurazione sanitaria. Questa per la parte dei dipendenti statunitensi di Airbnb. Deborah. C'è una ricerca interessante che c'è stata riportata in questi giorni da INAP, che è l'istituto nazionale, appunto, per che monitora sostanzialmente tutto ciò che viene fatto anche a livello pubblico in termini, appunto, di lavoro. Nella sostanza, questa ultima ricerca ci racconta che i settori ancora bloccati dopo il 4 maggio sono caratterizzati dalla presenza di lavoratori con meno garanzie. I settori numeri riaperti invece presentano modalità lavorative che garantiscono minore rischio di contagio, e questa è la modalità per la motivazione per cui effettivamente anche le riaperture delle attività economico-produttive sono state consentite con una gradualità che comunque ha fatto molto discutere, molto arrabbiare certi settori professionali, ma chiaramente ovviamente cela anche questo spirito. Il lavoro, i comparti dove il lavoro è caratterizzato da alta prossimità fisica sono stati riattivati in misura contenuta o non sono stati riattivati affatto, basti pensare ai parrucchieri, centri estetici, le palestre eccetera. Dove la riapertura è stata più consistente, la possibilità di svolgere le mansioni lavorative da casa risulta poi più elevata, e quanto emerge per l'appunto da questa ricerca che la Direzione Centrale Studi e Ricerche dell'INPS e la struttura lavoro e professioni di INAP hanno condotto congiuntamente proprio allo scopo di evidenziare le differenze individuali e strutturali fra l'insieme dei lavoratori che sono impiegati nei settori essenziali e quelli che operano nei settori ancora bloccati. E in questi ultimi settori per l'appunto è cresciuta rispetto ai lavori bloccati il 22 marzo l'incidenza dei segmenti fragili presenti nel mercato del lavoro, come le donne, che sono il 56% del totale dei lavoratori bloccati dal 4 maggio, i lavoratori temporanei sono al 48%, i lavoratori part-time sono al 56%, i giovani, gli stranieri, i lavoratori impiegati presso piccole e medie imprese, quindi insomma c'è ancora molto lavoro da fare in tutti i sensi per riportarci ad una condizione di normalità. Se volete consultare più precisamente, a parte che metteremo dentro nel Twitter, sul Twitter il riferimento, il sito, la ricerca, pardon, è consultabile integralmente nella parte studi e analisi dalla voce dati, ricerche e bilanci, che è presente sia nella prima pagina del sito www.inps.it sia su www.inap.org, perché in 2P, perché la sigla sta per Istituto per Nazionale per l'analisi del politico pubbliche, quindi è con 2P. Un'ultima cosa, Deborah, ti voglio dire a proposito di INPS. L'INPS ha segnalato che ha ricevuto quasi 49.000 domande di cassa integrazione in deroga, è quella cassa integrazione appunto dei piccoli, così potremmo dire, presentate dalla Regione Lombardia fino al 4 maggio. Sono 127 decreti arrivati all'INPS tra il 15 aprile e il 3 di maggio. Il primo era del 15 aprile, conteneva già 51 domande di cassa integrazione in deroga, e poi sono arrivati gli altri tra il 21 e il 29, altri 53, tra il 30 aprile e il 3 maggio altri 74. Il totale appunto porta a quasi 49.000 le domande solo per la regione Lombardia. Un altro dato che evidenzia la dimensione delle difficoltà per il mondo del lavoro e della produzione in questo periodo. Andiamo con il tema del giorno, che dici? Molto volentieri. Dov'è il nuovo lavoro? Il nuovo lavoro è sempre quello vecchio per molte persone naturalmente, ma molte persone stanno ritornando sul posto di lavoro, caro Mauro, proprio il caso di dirlo, con una condizione un po' nuova, no? Con mascherina, guanti, distanziati rigorosamente tra colleghi, e quindi una modalità di lavorare totalmente impostata ad un regime di sicurezza. E questo è un tema interessante perché il Cura Italia, sempre lui, perché ormai è diventato il nostro punto di riferimento per tutte le trasmissioni, ha introdotto una novità che ha generato molte perplessità appunto tra i datori di lavoro. Nella sostanza, caro Mauro, tu sei rimasto sempre lì, ma se ti dovessi ammalare in azienda non sarà più considerata la tua, poi non so se ovviamente devi restare a casa, un periodo di malattia, ma quello che è successo ti si sarà verificato sul posto di lavoro, quindi sarà da considerarsi un infortunio sul lavoro. Dobbiamo capire un po' meglio quello che è successo, perché chiaramente molti datori di lavoro sono preoccupati, no, per questa nuova circostanza e questa nuova considerazione di questa condizione. Esattamente. E allora noi abbiamo in collegamento Patrizio Rossi, sovrintendente sanitario nazionale INAIL, a cui diamo il benvenuto. Buongiorno, dottor Rossi. Buongiorno a voi e a tutti i radioascoltatori. E allora, perché così riusciamo a spiegare, abbiamo già riferito, la cosa sta creando parecchia preoccupazione tra gli imprenditori, tra le imprese, i datori di lavoro, perché l'idea è che appunto se uno si ammala per il Covid ed è tornato al lavoro, specialmente per i settori che hanno riaperto, sono 4.400.000 i lavoratori che sono rientrati in sede, sia considerato un infortunio e non una malattia. Quindi, detta molto brutalmente, ma poi lei integri con sapienza e diventa un affare INAIL e non un affare dell'INPS come sarebbe stato con la malattia, ma soprattutto ci può essere una responsabilità molto differente per il datore, dico bene? Non precisamente. Benissimo, diciamo, così chiariamo. Bene per quanto attiene, nel senso che forse, ma non dipende da lei, forse l'articolo 42 del Cura Italia, a cui faceva riferimento prima l'autorità Rosciani, è quello che forse ha rappresentato a tutti coloro che non conoscevano il fenomeno un infortunio, una malattia, un evento contagioso come una novità nell'inquadramento come infortunio sul lavoro. Così non è. Tutte le malattie infettive sono state sempre e comunque qualificate come infortuni sul lavoro quando riportate in occasione di lavoro. Adesso non voglio ripartire da citazioni lontane, ma è più di un secolo che la medicina legale ha inquadrato questo evento infettivo a partire dalla malaria, dalla tubercolosi, il virus dell'epatite, alla brucella, quindi le malattie infettive, certo, sono sempre state inquadrate come infortunio sul lavoro, qualora ovviamente riconducibili ad un'occasione di lavoro, quindi al lavoro che veniva svolto. In realtà quindi l'articolo 42 non è stata una novità, non ha introdotto alcuna novità nell'inquadramento della patologia come tale. Quindi ovviamente, non ha esteso, mi perdoni se la interrompo, ma così chiariamo a beneficio di tutti, non ha esteso in qualche modo l'applicazione di questo principio, lei ci sta spiegando, perché sempre la malattia infettiva era considerata in questo modo. Benissimo. È sempre stata tutelata in questo modo. Il conflitto almeno interpretativo che l'articolo 42 potrebbe aver determinato e deriva dall'entità del processo, del fenomeno Covid, o meglio dal contagio SARS-CoV-2. La pandemia in realtà pone inevitabilmente un dubbio in tutti coloro che ritengono di poter ricondurre il contagio non al lavoro, nel senso il lavoratore come mai si è contagiato sul lavoro e non invece a casa o mentre era con gli amici o mentre faceva, certo, attività diverse. Ecco, il processo pandemico pone un minimo di conflitto sotto questo aspetto, ed è per questo che l'istituto nell'inquadrare, o meglio nel continuare ad inquadrare l'evento infettivo come tutti gli eventi infettivi, come infortunio sul lavoro, ha ricondotto ad alcune categorie una rischiosità specifica. E quindi si è detto che gli operatori sanitari, quindi tutti gli operatori sanitari, gli ospedali pubblici, privati, ma anche il dentista che è nel proprio studio, così come i medici necroscopi o comunque il personale sociosanitario, hanno una rischiosità perché hanno un elevato rischio di contagio. Questa consapevolezza, questa esperienza, questo dato è un dato altrettanto consolidato. Se lei pensa adesso, senza citare documenti anche italiani che sono intervenuti, documento tecnico nell'aprile, c'è uno studio e una qualificazione che ha anticipato un po' tutti dell'Agenzia statunitense per la salute e la sicurezza sul lavoro, che già nel marzo qualificava i livelli di rischio come alto, elevato, alto, medio e basso, e all'interno di questi livelli di rischio introduceva, meglio, poneva le attività sanitarie tutte nell'elevato rischio di contagio. Quindi queste categorie hanno un elevato rischio di contagio perché hanno la necessità di dover svolgere attività che non sono sempre consentite con distanziamento e non sono sempre tali da individuare il paziente come contagiante, ma possono impattare dei pazienti che sono asintomatici e quindi non noti come contagianti, possono essere investiti dal contagio anche in presenza di misure di precauzione, di prevenzione messe in atto correttamente, da contagio per comportamenti imprudenti, per esempio da parte di pazienti o di altre persone, sì, contagianti. Ecco, tutto un insieme di fattori che aumentano il coefficiente di rischio e quindi qualificano questo rischio come elevato e la categoria degli operatori sanitari come una categoria che ha un rischio specifico di ammalare, certo, e di infortunarsi. È estremamente probabile che l'operatore dello studio dentistico, il dentista, l'operatore sanitario in genere, prenda, appunto, contragga il COVID con durante l'esercizio dell'attività. Certo. Questo quindi identifica alcune categorie che sono più a rischio, ma questa presunzione di la pandemia sia stata contratta sul lavoro è generica o invece poi deve essere in qualche modo correlata? Nel senso che molti ascoltatori già ci chiedono, ma come facciamo a sapere se il contagio è avvenuto sul luogo di lavoro, ovvero non è avvenuto per comportamenti imprudenti adottati in altro, certo, momento della giornata? Oppure Mauro, banalmente, si va al lavoro con il mezzo pubblico, per quanto sia adesso totalmente garantito il forte distanziamento naturalmente tra persone, però chi lo sa che non è arrivato il contagio sul treno, sul tram e sul appunto mezzo per raggiungere il posto di lavoro? La qualificazione di rischio specifico e quindi la presunzione di esposizione professionale, quindi la presunzione di aver contratto il virus sul lavoro, è destinata ed indirizzata solo ad alcune categorie di lavoratori, non a tutti gli altri lavoratori. Per tutti gli altri lavoratori il nesso che correla il lavoro all'infezione deve essere dimostrato attraverso elementi epidemiologici, clinici, ma anche circostanziali, anamnestici. Ecco, tutti questi elementi vanno a determinare all'interno di un'istruttoria medico legale, quindi lasciata al medico legale dell'istituto, una prova o meno di correlazione con il lavoro. Quindi il lavoratore può anche contagiarsi nell'ambito di, o meglio nel percorso che lo porta al lavoro o viceversa dal lavoro a casa, perché per l'infortunio in itinere sono tutelati tutti i rischi, non solo quelli da contagio, da circolazione stradale. Però in questa circostanza, come anche per tutte le altre categorie di lavoratori che non sono qualificabili come lavoratori ad elevato rischio di contagio, ecco, per tutti questi deve essere dimostrata, e sarà l'istruttore medico legale dell'istituto che andrà a verificare attraverso tutti gli elementi acquisiti se in realtà è davvero quel contagio è stato contratto sul lavoro. Nel caso non fosse dimostrato che non è così, quindi si derubrica la cosa da infortunio a malattia e non c'è più la copertura INAIL? No, perché qualora non fosse riconducibile ad infortunio, trattasi di malattia comune. Questo, la mia precisazione è dovuta perché in realtà l'INAIL tutela anche le malattie professionali, non è questo il caso, non ci riguarda, però sarebbe derubricato, come dice lei, a malattia comune, quindi la tutela è quella della malattia comune come di tutte le altre malattie comuni. Allora, credo che abbiamo fatto un po' più di chiarezza. Deborah? Speriamo, sì, no, direi che siamo a posto così. Speriamo naturalmente anche di poter dare una mano anche a tutte quelle aziende che in questo momento sono ragionevolmente preoccupate anche per dover, in prospettiva, speriamo di no, ovviamente, affrontare anche tutte queste situazioni che potrebbero aprirsi. Noi ovviamente ci auspichiamo che non sarà così. Io ho un'ultima cosa, anche se abbiamo solo 30 secondi, dottor Rossi. Il datore di lavoro di una colf, di una babysitter, di una badante, un badante, è comunque tenuto, come dire, a adottare tutta una serie di precauzioni, così come è stato stabilito per i datori di lavoro, diciamo così, standard? Certamente sì, io penso che qualsiasi forma lavorativa deve essere posta in sicurezza e quindi svolta secondo le norme precauzionali, non sono tantissime, sono quelle riconducibili a caratteristiche e a qualificazioni generali di non aggregazioni, di non prossimità e di non esposizione protratta e ripetuta, ma certamente deve essere garantito il lavoro, qualunque lavoro, un lavoro in sicurezza, compatibilmente e diciamo conformando le norme di sicurezza a quelle che sono le realtà e le specificità del rischio lavorativo. A questo però correlo, sempre rubandole qualche secondo, prego, proprio richiamando tutte le caratteristiche che in maniera anomala possono garantire un contagio per il lavoratore, ecco, dicevo che nel momento in cui vi è una presunzione semplice che consente di riconoscere questo infortunio, questo contagio come infortunio del lavoro, certo se l'indennizzabilità di questo evento non determina un automatismo in termini di responsabilità del datore di lavoro per le ragioni che le dicevo. Questo è un argomento forse al limite, forse più di giuslavoristi, ma come medico legale mi sento di ribadire che a fronte di un automatismo di riconoscimento per i lavoratori esposti e avendo un rischio, aventi un rischio specifico, vi è un mancato automatismo nell'attivazione, per esempio, delle azioni di regresso nei confronti del datore di lavoro. Cioè non c'è automaticamente una responsabilità addossata al datore di lavoro. Assolutamente no, proprio per le ragioni senso. Che le dicevo, che è tutto il riconoscimento attraverso il rischio specifico e la presunzione semplice è un riconoscimento probabilistico, di elevata probabilità, ma assolutamente no di certezza, e in ragione proprio delle caratteristiche di contrazione del contagio, che possono essere anomale, di stato di necessità, come dicevo, di particolari anche comportamenti colposi da parte di un soggetto contagiante, che in ragione di tutti questi elementi non è automatico. Certo, vanno verificate le condizioni, non è compito nostro, ma vanno verificate, ma non vi è un automatismo di riconoscimento di responsabilità del datore di lavoro. Non vi può essere, perché certo. Il criterio di riconoscimento e di indennizzabilità è un criterio solo probabilistico, non di certezza. Grazie dottor Rossi. Patrizio Rossi, sovrintendente sanitario nazionale INAIL. Torneremo a disturbarla via via che appunto vedremo chiarirsi questa dipanarsi questa vicenda sui luoghi di lavoro. Cara Deborah, mi scuso, ti ho fatto fare tardi, ma adesso ci devi aggiornare sulle borse. Soldi buttati, soldi buttati. Due di denari. Cara Deborah, rieccoci per parlare di lavoro in agricoltura. Torno a precisare, non stiamo parlando della regolarizzazione possibile, si sta ragionando, ne sta parlando la politica, della regolarizzazione possibile degli immigrati, dei braccianti non regolari, ma invece proprio delle opportunità. Le opportunità emerse, per così dire, non sommerse per il lavoro in agricoltura. Per ragioni di galanteria introduco per prima la nostra collega Micaela Cappellini, collega del Sole 24 Ore, che si occupa spesso di queste tematiche nelle pagine appunto dedicate alle imprese sul quotidiano. Buongiorno Micaela. Buongiorno Mauro. Allora, abbiamo poi anche in collegamento, cara Deborah, Ettore Prandini, presidente nazionale di Coldiretti. Buongiorno, buongiorno presidente. Buongiorno a tutti voi. Deborah, vuoi cominciare tu a riepilogare il quadro? Sì, guarda, volentieri. È un settore molto interessante questo. Allora, ovviamente si è soprattutto determinata un'urgenza in questo periodo perché i campi devono essere occupati in qualche maniera, perché ci sono raccolti da sostenere, la manodopera scarseggia. C'è anche un altro tema, peraltro leggendo un po' sui giornali in questi giorni, Mauro, di questo argomento che è stato sollevato con grande vigore soprattutto dalle organizzazioni di categoria, dagli imprenditori agricoli. Il tema è che se tu non fai il raccolto e non fai un regolare approvvigionamento dei negozi, i centri commerciali, e non come dire copri la filiera in maniera adeguata, è chiaro che poi schizzano anche i prezzi, no? E quindi c'è anche questo riflesso aggiuntivo che non va sottovalutato, perché poi si carica sul consumatore. Ma noi chiaramente guardiamo oggi questo argomento dal punto di vista del mondo del lavoro, perché si sono attivate alcune piattaforme dove si possono incontrare la domanda e l'offerta di lavoratori, e quindi si possono incontrare i bisogni dei lavoratori che vogliono un impiego in questo campo, oppure magari sono momentaneamente disoccupati e cercano anche un impiego in questo settore. E poi c'è tutto il bisogno da parte dell'imprenditoria agricola che in questo momento soffre parecchio. Allora, ce ne sono state alcune di piattaforme che si sono attivate, e l'ultima è stata quella che ha avuto anche un po' il sostegno pubblico, Job in Country, attivata proprio da Coldiretti. Volevo però fare un punto subito con Micaela, perché ha fatto una ricognizione e un monitoraggio recentemente per il Sole 24 Ore su tutte quelle iniziative che si sono appunto rese disponibili in questo periodo proprio per dare una risposta a questo problema. Micaela, che cosa hai scoperto? Come stanno funzionando queste piattaforme? Chi si candida? E insomma, in quali regioni d'Italia soprattutto poi si sono attivate? Perché come sempre succede, c'è una situazione molto eterogenea poi sul territorio. Allora Deborah, la vera verità è che quanto funzionano bene non si sa, quindi forse ce lo dirà meglio il presidente Prandini, che ha l'occhio e la mano sulla piattaforma che ha lanciato la Coldiretti. Però insomma, siccome in questo momento la verdura, la frutta nei campi non aspetta, i lavoratori non ci sono perché la maggior parte arrivano dai paesi dell'est Europa, e in questo momento di frontiere chiuse o rese difficili o bloccate dalle quarantene non arrivano, più o meno la carenza, le organizzazioni stimano che manchino tra i 250.000 e i 350.000 lavoratori a seconda della stagione, perché prima c'è un tipo di raccolto poi un altro. Allora nel tentativo di incrociare domanda e offerta qualcuno ha cercato di correre ai ripari e di lanciare delle piattaforme online. Delle piattaforme online che sono però un po' diverse da quelle immediate, per cui uno mette la propria domanda, cerca l'offerta di lavoro proveniente dalle aziende agricole e poi in realtà il vero incontro tra domanda e offerta non è immediato e online, ma poi si consultano, si alza il telefono, si sentono le organizzazioni provinciali e ci si mette d'accordo. Le piattaforme sono parecchie, perché c'è Job in Country che ha lanciato Coldiretti, che ha testato prima a livello locale in Veneto, perché il Veneto è una delle regioni, a discapito di quello che si pensi, che serve solo i braccianti per i pomodori al sud, il Veneto è una di quelle regioni che ha in questo momento molto bisogno di manodopera per la raccolta. Quindi è stata testata prima in Veneto, poi è stata allargata. È curioso sapere che insomma si sono rivolti un po' di tutti come offerta di manodopera, perché la Coldiretti ha raccontato che insomma ci sono stati dei blogger che si sono offerti per fare questo lavoro, dei responsabili marketing, studiosi di storia dell'arte, pensionati, studenti universitari, insomma veramente un po' di tutto. Poi però c'è un'altra piattaforma, che è la piattaforma AgriJob di Confagricoltura, che è un'altra delle associazioni che riuniscono le aziende dell'agricoltura italiana e che altrettanto si muove su pubblicando annunci di offerte di lavoro e mettendo in contatto gli offerenti con chi mette a disposizione manodopera. C'è una terza piattaforma, perché le organizzazioni agricole in Italia sono più di una, quindi ciascuna si è mossa in questo momento cercando di essere rapida, si è mossa in solitaria, quindi poi alla fine le risposte sono state molteplici, e che è la piattaforma della CIA, degli agricoltori italiani, l'Associazione degli Agricoltori Italiani, e che è stata fatta in collaborazione con Synergy, che è una società di lavoro interinale, perché poi ci sono anche le sezioni delle agenzie di lavoro interinale, esatto, dedicate a questo. Quindi è un po' un incrocio di tante cose. Lo stesso governo promette di uniformare tutto creando un'unica piattaforma, per di più con un'app. Quindi per il momento sono tanti spunti. Speriamo non nel decreto di maggio, se no si allunga ulteriormente, Micaela. Sarà il decreto giugno, Mauro, immagino. Allora, no, naturalmente è una battuta, insomma, ma per dare un po', Deborah... Sì, perché sennò le fragole qua chissà chi ce le porta poi, esatto, quindi bisogna sbrigarsi. Era per passare un po' la palla al presidente Coldiretti, Ettore Prandini, è stato chiamato in causa direttamente dalla collega che diceva Job in Country, appunto, esperienza di Coldiretti per riuscire a far incrociare domanda, in questo momento anche mi pare di capire abbastanza urgente, e offerta di lavoro. Come va, presidente Prandini? Sta andando molto bene per quanto riguarda il mettere in contatto direttamente appunto quella che è l'offerta in termini di lavoro e quelle che sono appunto le esigenze anche dei singoli cittadini che si mettono a disposizione. Sin dall'inizio però noi avevamo chiesto al governo di mutuare un po' quello che è stato fatto in Francia, dove invece la piattaforma era di carattere pubblico, e nell'arco di 10 giorni ha avuto più di 220.000 richieste di cittadini francesi che si rendevano disponibili a andare a lavorare in agricoltura e dare una risposta concreta rispetto appunto a quello che era il bisogno della manodopera stagionale. E non a caso al governo avevamo anche chiesto la reintroduzione dei voucher in modo semplificato, perché diventava lo strumento più veloce, ma soprattutto per abbattere tutti gli aspetti di carattere burocratico alle quali le nostre aziende devono sottostare in una situazione ovviamente di carattere emergenziale solo per il periodo del coronavirus. Ci sembrava intelligente e importante non lasciare del prodotto all'interno dei campi in agricoltura o all'interno delle imprese agricole, ma non solo con il rischio di non poterlo offrire ai cittadini consumatori italiani, ma anche quello di perdere poi fasce di mercato legate all'esportazione, che laddove non li dovessimo coprire noi è chiaro che verranno occupate da altri paesi come la Spagna, che ovviamente sotto questo punto di vista è stata anche in questo caso un po' più veloce rispetto a noi. Tra l'altro voglio ricordare che se stiamo mettendo via via sui nostri social, quindi su Twitter, sulle nostre pagine Facebook e così via, questi indirizzi di questi portali, ad esempio per quanto riguarda Job in Country, coldiretti.it, e per Job in Country lavoro.coldiretti.it. Quindi questo già se qualcuno fosse interessato a prendere immediatamente contatto. Deborah, siamo quasi però in ambiente di traffico, che vuoi fare? Ci fermiamo? Ah, abbiamo un po' di problemi con il collegamento, allora ci fermiamo un istante, mandiamo con qualche secondo di anticipo il traffico, Filippo Aureggi mi perdonerà per questo scherzetto e ritorniamo subito a parlare di opportunità di lavoro in agricoltura. A tra poco. Due di denari. Parlate dell'opportunità data da Coldiretti per il lavoro in agricoltura. Io sono della provincia di Modena, qua agricoltura, ciliegie, tutti che chiedono e domande sul sito della Coldiretti specifici sono 3 in tutta la provincia di Modena. Come si fa? Perché è infattibile questa cosa qua, è impossibile che ci siano solo 3 domande quando tutti chiedono la cosa. Mauro, chissà che cosa voleva dire l'ascoltatore se domande da parte di persone che si mettono a disposizione per lavorare in questi settori o domande di aziende che sono a caccia invece di professionalità. Probabilmente Job in Country, visto che non è partita, cioè in realtà l'iniziativa è partita da molto tempo, adesso diciamo c'è questa autorizzazione del Ministero del Lavoro e quindi una banca dati che ha, come dire, in questo momento uno sponsor diverso rispetto al passato, no? Presidente Prandini, che cosa ne pensa dell'osservazione che ha fatto l'ascoltatore? E poi magari spieghiamo anche rispetto al passato Job in Country come è cambiata, perché noi questa piattaforma la conoscevamo già. Sì, Job in Country era già operativo, ovviamente ha avuto il riconoscimento da parte del Ministero del Lavoro, quindi diventa una piattaforma ufficiale e riconosciuta a livello pubblico e a livello appunto ministeriale, quindi può operare sotto tutti i punti di vista, creando veramente un contatto diretto fra quelle che sono le domande e le offerte di lavoro. È chiaro che è una piattaforma che è entrata però in termini operativi solo da qualche settimana, quindi in tante zone, soprattutto quelle che sono più vocate anche all'ambito agricolo, cosa che noi abbiamo sempre sottolineato anche in queste ore, come dicevo prima, al governo, è quella che in agricoltura, al di là di quello che si fa chiedere, poi c'è bisogno di una manodopera di carattere professionale, cioè non è che ci possono essere delle persone improvvisate che vengono a lavorare all'interno delle imprese agricole, perché sennò rischiamo di fare... Ma adesso un po' il messaggio, Presidente, che sta passando è un po' questo, no? Visto che c'è tanto bisogno sui campi, la manodopera generalmente un pochino scarseggia, in questo momento un po' di più, e in questo momento c'è anche molta fame di lavoro da parte di persone che si sono trovate improvvisamente prive di un'occupazione, che magari cercano alternative, qualunque questa sia. Se magari in passato una persona che stava in cassa integrazione poteva trovarsi un piccolo impiego facendo, non lo so, il cameriere in un ristorante o in un bar, magari adesso ipotizza di andare a fare la raccolta per l'appunto delle ciliegie o delle zucchine. Però lei dice non è questo lo spirito dell'iniziativa. No, lo spirito dell'iniziativa deve essere quello di poter anche selezionare la manodopera. Ci sono delle persone che hanno già avuto esperienza anche in un contesto lavorativo di ambito agricolo, quindi la possibilità dell'azienda di poter scegliere e questo diventa fondamentale. È da qua che iniziava la nostra richiesta per la reintroduzione dei voucher, proprio perché era uno strumento agile, facile, semplice da poter utilizzare, cosa diversa rispetto a quelli che sono in questa fase, ripeto, particolarmente straordinaria e drammatica per il Paese, i normali contratti che possono essere utilizzati dalle stesse imprese agricole. La priorità è di non lasciare prodotto in campo, diversamente noi andremo ad aumentare, ripeto, quelli che sono anche i costi per le fasce più deboli, perché con assenza di prodotto ci sarà una lievitazione di quelli che sono i prezzi sul consumo, cosa che noi vogliamo, ripeto, evitare, e lo possiamo fare se utilizzeremo in modo intelligente, come è stato fatto in altri Stati membri, degli strumenti agili e veloci anche sul tema della manodopera. Perché l'importanza dell'evidenziare della manodopera stagionale? Perché noi l'andavamo ormai a reperire in paesi come la Romania, come la Polonia, e quindi adottando anche quelli che sono i corridoi verdi, che siamo riusciti ad avere ad averne l'autorizzazione dal livello europeo, mentre in Germania, nel Regno Unito, subito si sono attivati i governi per facilitare l'arrivo di queste persone all'interno dell'impresa agricola, noi purtroppo è da ormai settimane che continuiamo a discutere sulla regolarizzazione di cittadini extracomunitari presenti nel nostro paese non in regola, ma io continuo a dubitare del fatto che poi realmente queste persone verranno ad essere utilizzate e impiegate all'interno delle stesse imprese agricole. Cosa diversa? Tra l'altro, Presidente, guardi, mi intrufolo e chiedo scusa anche a Mauro, si stava ipotizzando anche la possibilità che i percettori di reddito di cittadinanza, quelli che ancora non sono stati collocati dalle iniziative di politica appunto attiva, da ANPAL Servizi e dai Navigator, eccetera, possano essere in questo momento dirottati in questo ambito. Le sembrerebbe una buona idea? Sì, però dobbiamo sempre specificare che ci sono alcune mansioni che possono essere fatte da cittadini comuni, altre, quelle più specializzate. Prima si parlava ad esempio della raccolta di fragole. La raccolta di fragole, nella manipolazione, nel momento in cui la fragola viene appunto raccolta, se manipolata in modo sbagliato, rischia di danneggiare il frutto stesso e quindi di comprometterne poi la vendita. Quindi dobbiamo sempre sottolineare che l'agricoltura, come tutti gli altri settori produttivi, oggi ha bisogno di una manodopera che sia in grado poi di svolgere realmente quel tipo di attività. Poi, se all'interno di quelli che sono i cittadini che oggi usufruiscono anche del reddito di cittadinanza, ce ne sono fra questi persone che sono in grado di poter lavorare all'interno di imprese agricole, ben vengano, e sicuramente tutto quello che oggi possiamo recuperare è sicuramente utile per non lasciare prodotto in campo. Allora, Deborah, sui voucher magari con il Presidente Prandini torniamo tra un momento, perché effettivamente si stava ragionando di una possibile recupero almeno temporaneo. Volevo invece riproporre a Micaela quello che sembrava essere l'argomento dell'ascoltatore che abbiamo ascoltato via WhatsApp. Cioè, Micaela, pareva dire che c'è un forte mismatch, come si dice nell'ambito del lavoro, cioè una distanza tra domanda e offerta di lavoro che non riesce a essere colmata. Ma a tuo giudizio, queste varie piattaforme che hai potuto così vedere, visionare per gli articoli che hai scritto e che stai scrivendo, riescono a intercettare abbastanza il mondo agricolo, i produttori, le aziende del settore? Il presidente Prandini mi perdonerà, però non sono nessuna di queste piattaforme ha l'immediatezza che noi ci possiamo immaginare nell'era del digitale, di internet, cioè sono piattaforme in cui vengono suddivise per livello provinciale le offerte di lavoro come se fossero dei post-it attaccati su un muro, ok? Dopodiché chi è interessato a candidarsi per un posto di lavoro deve fondamentalmente mandare una mail o fare una telefonata, e poi a quel punto la parte provinciale delle associazioni si occupa di mettere in contatto, quindi non è molto immediata, è sicuramente un primo tentativo, perché il grosso problema di questa cosa è che si è messo in campo tante possibili soluzioni ma non se n'è battuta una veramente in modo da portarla a termine fino in fondo, per cui è sicuramente una lodevole iniziativa per cercare di incrociare la domanda e l'offerta in maniera rapida. Però il mismatch di cui parla l'ascoltatore è dovuto a questo, che non c'è una piattaforma interattiva, probabilmente erano costi di gestione e anche tecnologie che uno non necessariamente poteva mettere in campo rapidamente, però si tratta appunto di fare telefonate e poi di mettere in contatto. Questo potrebbe un po' allungare i tempi, senza contare che, dice giustamente il presidente Prandini, Jobbing Country è ufficialmente riconosciuta dal Ministero, ma anche le altre lo sono, cioè il bollino ministeriale c'è su tutte le piattaforme. Il punto è che non esiste una piattaforma, forse come hanno fatto in Francia, ricordavamo prima, fosse esistita una piattaforma soltanto tutto sarebbe stato più snello. Invece adesso io, se mi voglio candidare per il Veneto, devo guardare su più piattaforme, devo trovare, poi devo scrivere una mail, aspettare di essere richiamato. Non hanno l'immediatezza dei portali così come ce lo immaginiamo noi, no? Clicco, entro e la domanda parte, perché sono nate in rapidità, quindi non potevano essere questo. Certo. Questo sono lavori professionali. nazionali. Certo, quindi bisogna anche armarsi di un po' di determinazione in questo caso, non di pazienza, ma di determinazione se uno è interessato. Fatte salve tutte le cose che ci ha ricordato il presidente Prandini, cioè non è una candidatura qualsiasi cosa purché ci sia un lavoro, ma insomma anche cercare di individuare delle richieste che siano un po' confacenti con se non la propria preparazione, almeno proprio così, mi viene da dire la propria condizione fisica, ecco. Ma qualcuno tra l'altro chiede... Mauro, sarebbe interessante capire anche quali sono le altre mansioni, no? che è necessario coprire in agricoltura. Parlavamo della delicatezza del compito della raccolta della fragola, che chiaramente è un compito delicato perché ha bisogno di manualità. Noi sappiamo quanto siamo schizzinosi quando poi ci arriva sul tavolo un prodotto che anche dal punto di vista estetico ovviamente non è adeguato. Per la frutta e la verdura questi aspetti sono molto importanti, ma voglio dire, quali altri mestieri in agricoltura è necessario soddisfare? Presidente Prandini, insomma, magari ci faccia lei per noi un viaggio nella piattaforma, insomma, di quali professionalità avete bisogno, oltre che di quelli che materialmente poi raccolgono i prodotti sul campo? Parliamo in modo variegato di tutti i settori produttivi legati al comparto agricolo, agroalimentare, che riguardano, come dicevamo, comunque una manodopera che in alcuni casi può essere stagionale, ma in altri casi assolutamente anche la possibilità di reperire manodopera a tempo indeterminato. Quindi sul tempo indeterminato sicuramente la zootecnia è il settore che ne necessita di più, e anche qua una manodopera qualificata. Noi continuiamo a chiedere che si ritorni ad investire in modo serio anche sull'alternanza scuola-lavoro, quindi con le scuole di carattere tecnico-professionale che abbiano un rapporto diretto con le imprese, in modo tale che quando i ragazzi poi escono, concludono questi periodi di studio, siano già in grado di svolgere un'attività all'interno dell'impresa agricola. E contestualmente, per quanto riguarda invece la manodopera stagionale, abbiamo parlato del settore legato ovviamente all'ortofrutta, ma sappiamo che fra un po' la stessa esigenza noi l'avremo nel settore vitivinicolo, legato ad alcune operazioni che dovranno essere fatte nei vigneti e anche alla fase poi di vendemmia e di raccolta dell'uva stessa. E allora torniamo. Faccio un pensiero alle mie Marche, Mauro, solamente sì. Perché in giugno, che io non ci potrò andare, ci sono generalmente nelle zone dove abito io delle distese di grano e girasoli che sono meravigliosi, e quindi con grande nostalgia chiudo oggi questo mio contributo alla trasmissione. No, aspetta, perché abbiamo ancora un paio di minuti. Io voglio tornare sulla vicenda dei voucher, perché si era anche ipotizzato che nel famoso decreto di maggio, che era quello di aprile, è diventato di maggio, appunto, ne lo diciamo all'inizio di trasmissione. Ma perché tu sei pignolo? Qualche cosa, sono pedante, lo sai. Qualche cosa sui voucher poi si poteva anche valutare. Invece, da quanto dice il presidente Prandini, mi pare di capire che la strada è chiusa. Non c'è possibilità di recupero anche temporaneo dei voucher. Ma io a minuti avrò proprio un confronto con il presidente del Consiglio. E noi ribadiremo questa esigenza che le imprese agricole hanno. Sappiamo che non c'è condivisione da parte dei sindacati del lavoro, ma ripeto, siamo in una situazione del tutto straordinaria. Accettiamo che i voucher vengano reintrodotti solo per il periodo legato al coronavirus, quindi all'anno 2020, ma riteniamo che dobbiamo per una volta dare dimostrazione di conoscere quelle che sono le esigenze che le imprese hanno in questa fase drammatica per il paese. Se noi non saremo in grado di dare queste risposte, rischiamo di perdere anche in termini di competitività rispetto a quelli che sono i mercati a noi più vicini, ma che sui mercati esteri competono maggiormente anche sul valore delle esportazioni. E penso che mai come in questo momento sia un rischio e un lusso che il nostro paese non si possa permettere. Quindi il voucher diventa uno strumento che dà una risposta concreta, ma soprattutto che va a annullare tutti gli aspetti di carattere burocratico, e mi ripeto sotto questo punto di vista. Quindi permetterebbe di agire in velocità. Vedremo allora, intanto le facciamo ovviamente in bocca al lupo per la sua conversazione tra pochissimo con il Presidente del Consiglio. E cara Deborah, siamo arrivati in chiusura, quindi io ringrazio anche Micaela Cappellini, la collega del Sole 24 Ore che ci ha accompagnato. Grazie Micaela. A voi, grazie Micaela, a presto. E ciao. Noi torniamo domani giovedì, parliamo di investimenti, giusto? Eh sì, investire informati. Buona giornata a tutti. A domani.